Per quanto qualcuno voglia fingere di non saperlo, la vita di Martin Lutero non può passare inosservata. Egli nasce a Eisleben in Sassonia il 10 novembre 1483. Studia all'Università di Erfurt, dove, nel gennaio 1505, ottiene il grado di Magister. A seguito di una crisi religiosa, e anche per rispettare un voto fatto in un momento di grave pericolo, entra nel luglio del 1505 nel convento agostiniano di Erfurt, dove viene ordinato sacerdote il 2 maggio 1507. Nella storia della religione cattolica romana, egli ha lasciato una impronta indelebile e per molti imbarazzante. Martin Lutero inizialmente non aveva mai pensato di separarsi dalla religione di Roma, ma quando Papa Leone X emette il 15 giugno 1520 una bolla di scomunica che sarà consegnata il 10 ottobre, permette a Lutero di dare avvio al movimento religioso che prenderà il nome protestantesimo. Lutero è diventato noto non perché egli sia stato il primo ribelle contro Roma, dato che tanti altri lo avevano preceduto, tra i quali Pietro Valdo e Girolamo Savonarola, ma perché ha saputo fondare ogni contestazione basandosi sulla Bibbia e minando in tal modo l'autorità di Roma in ciò che ne avrebbe dovuto costituire il fondamento. Le probabilità di sopravvivenza di Lutero erano molto scarse, se non fosse che per volontà di Dio Federico il Savio gli offrì il suo appoggio. «Che cosa ha?» scrisse e disse di particolare Lutero da scatenare una divisione netta nel cattolicesimo. Martin Lutero è conosciuto soprattutto per la sua dottrina della giustificazione per la sola fede, per il principio del sacerdozio universale e della sola scrittura, sola fede e sola grazia, ma alcuni storici sono convinti che uno dei più grandi insegnamenti del riformatore ci sia stato impartito mediante il matrimonio. Sposarsi è uno degli atti più normali che una persona compie, ma tenendo presente che Lutero era un monaco inserito in una cultura religiosa, quale la cattolica romana, dove vi è l'imposizione del celibato per chi prende i voti religiosi, allora è comprensibile come il matrimonio di Lutero abbia fatto scalpore e sia stato un esempio per altri religiosi che avevano abbracciato la fede del cattolicesimo romano. Non solo. Mentre nel mondo uomini famosi con particolari doni, e a volte anche tra alcuni credenti, vi è una dicotomia tra il successo e il loro rapporto con il matrimonio, in Lutero vi era armonia. Ciò che predicava era vissuto nell'ambito matrimoniale. Come e perché si è sposato Lutero? Come ha vissuto il suo matrimonio? La conseguenza dell'insegnamento di Lutero aveva indotto non soltanto i frati, ma anche le monache a lasciare il convento, perché le relazioni sessuali, come egli scrisse, erano tanto necessarie quanto inevitabili, come il mangiare e il bere. Perciò, per chi non avesse avuto il dono dell'astinenza, il matrimonio era una condizione più pura di quella monastica. Quando alcune suore di un villaggio vicino vennero a chiedere il suo consiglio su quel che dovevano fare riguardo alle loro convinzioni evangeliche, egli si impegnò a preparare la loro la fuga. Era un atto audace, perché il rapimento di monache era passibile di pena capitale. Ma Lutero ottenne clandestinamente l'aiuto di un cittadino rispettabile, il quale caricò 12 monache dentro a dei barili vuoti di aringhe sul suo carro coperto. 3 tornarono alle loro case, 9 arrivarono a destinazione. Lutero si sentì responsabile di trovare loro una casa, un marito o qualche occupazione. La cosa più ovvia sarebbe stata che risolvesse uno dei casi, sposandosi lui stesso, ma Lutero disse chiaramente che ciò non rientrava nelle sue intenzioni. Non perché fosse una pietra sessuata o un nemico del matrimonio, ma perché di giorno in giorno aspettava la condanna a morte come eretico. Dopo aver sistemato le 8 monache, ne rimase una, Catarina von Bora. Per Catarina Lutero trovò più mariti, ma la cosa non andò in porto finché Catarina espresse la sua disponibilità a sposare anche lo stesso Lutero. Egli non prese seriamente in esame la questione fino a quando non andò a far visita ai suoi genitori. Quello che raccontò, probabilmente come un buffo scherzo, suo padre lo considerò come una proposta concreta perché aveva sempre desiderato che suo figlio perpetuasse il nome della famiglia, e perciò, in seguito ad altri avvenimenti, Lutero pensò e decise di sposarsi almeno per 3 motivi. 1. Far piacere a suo padre. 2. Indispettire il Papa e il diavolo. 3. E suggellare la sua testimonianza prima del martirio al quale pensava di essere prossimo. In una lettera scrisse: «Io non sono innamorato benché voglia bene a mia moglie». E in un'altra occasione dichiarò: «Non cambierei Kate per la Francia o per Venezia. Perché Dio me l'ha data e altre donne hanno difetti peggiori». Queste due valutazioni di Lutero in merito al matrimonio mettono in evidenza un aspetto molto importante che oggi ormai è andato perduto, ossia riconoscere nella persona scelta dei difetti da amare assieme alle virtù. Lutero non si è sposato perché era innamorato. Al giorno d'oggi è impensabile contrarre un matrimonio senza il presupposto di un innamoramento, e forse è anche questo il motivo per il quale molti matrimoni terminano con una separazione o un divorzio. Quando un coniuge afferma di separarsi perché non ama più, il proprio partner non fa altro che essere coerente con i propri sentimenti, e proprio per questa coerenza senza ombra di dubbio, egli ritiene legittimo abbandonare il tetto coniugale. Ma il matrimonio prima di tutto non è l'incontro di due stati d'animo come l'innamoramento, non è l'armonia sessuale, ma fedeltà nell'intento di voler vivere e convivere con la persona con la quale si vuole condividere la propria esistenza terrena. E poiché i nostri sentimenti sono mutevoli, è normale che chi si unisce per un fattore sentimentale si trovi ben presto di fronte al bivio tra dovere e sfera affettiva. E poiché l'impegno matrimoniale è ritenuto una forma alla fine, i sentimenti prevalgono, portando chi non è più innamorato a cercare nuove emozioni fuori dalla vita domestica. Ma un matrimonio contratto soprattutto dal dovere molto difficilmente sarà silurato dai sentimenti, perché ogni giorno sarà una sfida per ottemperare all'impegno preso davanti agli uomini e soprattutto preso con il proprio partner davanti a Dio. Inoltre vi è una legge alla quale nessuno può sottrarsi. Mentre i sentimenti, una volta raggiunte le vette più alte, non possono altro che diminuire, un impegno è per tutta la vita e cresce come sfida ogni giorno sempre di più. Lutero ha anche dichiarato che voleva bene a sua moglie e non che l'amava. Certamente il bene fa parte dell'amore, e per questo possiamo dire che Lutero amava sua moglie, ma purtroppo oggi i fidanzati usano troppo di frequente il termine amore, senza rendersi conto che lo stanno sostituendo con la passione sessuale. Il matrimonio di Lutero con Catarina fu un esempio di convivenza matrimoniale proprio perché non erano partiti con una infatuazione giovanile. Non avevano l'obiettivo di non aver figli, per motivi egoistici, ma avevano il principio di onorare Dio. Tanto è vero che ebbero 6 figli in 8 anni. Li allevarono inoltre 4 orfani, figli di parenti. Vi sono credenti che pensano al modo con il quale potrebbero servire Dio, ma non sanno che spesso il primo posto è il matrimonio. Lutero fece proprio questo. L'atteggiamento di Lutero in merito al matrimonio non era romantico né idealistico, ma patriarcale. Non era romantico perché in seguito disse: «Il primo amore è ubriaco, ma quando l'ebbrezza se ne va, allora viene il vero amore». Vi sono alcuni che si scandalizzano se si afferma che durante il fidanzamento non può esistere amore, ma evidentemente Lutero la pensava così. Per Lutero il matrimonio era patriarcale perché l'uomo era capo della moglie per un principio creazionale. Ed essa non solo deve a lui amore, ma anche onore e obbedienza. Il marito deve governarla con delicatezza, ma deve governarla. La moglie ha la sua propria sfera di azione che si esplica nella casa e con i figli. I figli sono soggetti ai genitori, ma specialmente al padre, che esercita la stessa autorità che il magistrato esercita nello Stato. Per Lutero l'istituzione del matrimonio veniva collocata nel quadro delle relazioni familiari, senza lasciar posto ad un individualismo incontrollato. Così le famiglie decidevano i matrimoni e, mentre i genitori venivano esortati a non obbligare i figli a unioni che fossero loro sgradevoli, i figli a loro volta non dovevano opporsi alla scelta ragionevole dei genitori a causa di qualche infatuazione. Un metodo del genere forse oggi fa sorridere e rabbrividire qualche giovane, ma la mia riflessione è che un simile metodo per scegliere il coniuge non è poi così malfatto. Prima di tutto perché una libertà completa nella scelta del coniuge vediamo che non porta molti buoni risultati, dato che divorzi e separazione sono all'ordine del giorno. Inoltre, se il matrimonio è un impegno prima di essere due cuori che si incontrano, allora l'intervento dei genitori in merito alla scelta del coniuge non è sempre sbagliato, anche perché se si ci sposa per dovere si metterà più impegno ad amare il partner. Per Lutero gli sposi devono cercare di rendersi graditi l'un l'altro. Forse questo è l'aspetto più importante del matrimonio, perché chi ama desidera di piacere all'altro. Ai tempi di Lutero si diceva che alla sposa era dato questo consiglio savio: «Mia cara, fai in modo che tornando alla sera tuo marito si senta felice di passare la soglia di casa». E allo sposo si diceva: «Fai in modo che tua moglie si rattristi nel vederti partire». La vita più piacevole, si diceva ancora, consiste nel vivere uniti ed in pace con la moglie pia, premurosa ed obbediente. E infine, l'unione fisica non è sufficiente. Ci vuole anche unità di sentimenti e di pensiero. Qualche storico ha fatto notare che Lutero soffriva di gotta, di insonnia, di catarro, di emorroidi, di stitichezza, di calcoli, di vertigini e forti ronzie alle orecchie, e che questa salute malferma l'avevano prematuramente ridotto a comportarsi come un vecchio irascibile. Petulante, arcigno insofferente e talvolta francamente grossolano, ma questo non è bastato, perché non godesse e non apprezzasse la vita matrimoniale. Se a Lutero non fu possibile riformare il mondo religioso, poté almeno porre le fondamenta secondo le quali un cristiano deve vivere e comportarsi in famiglia. Aspetto questo, che vissuto nello spirito del Vangelo testimonia tanto quanto la predicazione del Vangelo stesso. Aprile 2005. Ellero.